aspettare. Un labbra labbra velenoso. Se stai lontana posso toccare. Apri un varco nella notte. Lucciole. Apri un varco nella notte. Puoi soccorrere. Riesco a capire. Apri un varco nella notte. Non ho niente da spiegare. Luci posso trovare. Se sto in silenzio sentirei vivere. Se tell me where you're free. Sotto la luna.